avanti. Attenzione canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Ci sono me. Ciao Cla. Che si dice? Si dice che sto disturbando il computer e il televisore di uno, di quello che mi ha fatto mettere l'antenna TV sul palo suo. Grazie. E va in tratta acqua a qualche parte con l'antenna? Ma dopo è nella mia. No, nella sua. Sicuramente, a che cosa? Beh, però è condominiale, non può una toccarla. Bel casino, quindi. E mo, quindi, da una parte e dall'altra si casina tosse. Sì, basta non parlare. Secondo come va, se mi dice che lo disturbo, adesso l'ho messo a un attimo. Se mi dice che lo disturbo, non parlo più. Ascolta, cosa vuoi ti dica? Che rottura di palle. Che rottura di palle, questi televisori che sono. Ma lì Natalia dovevi immaginare, tutto ammucchiato, troppo. Un bel casino lì. Bisogna trovare una soluzione per sollevare almeno di altre 3 metri l'antenna, superare appunto il torrino, superare l'antenna, capito? Si è troppo attaccato. Non vedo come fare. Vabbè, là, secondo come va, ascolta tu. Lì, come fa? Lì bisogna rimboccarsi nuovo le maniche. Faranno tutto, scenderne tutto e aggiungere almeno 3 metri, 4 metri di tubo telescopico. E allora il problema è risolto. Però devi avere l'accesso da là, capito? Quello che ti ha fatto mettere l'antenna TV, devi andare lì, uno deve andare lì, se no non ce la facciamo a tirarla su questa volta. Tu diglielo, approfitta, capito? Visto che l'hai già sentito, dire che il lavoro non è finito, se noi un paio d'ore. L'importante è che uno rimanga su Natalia. Uno deve rimanere sopra dove c'è l'antenna tua della TV. Allora guarda, io un paio d'ore, non accendiamo, aggiungiamo un altro telescopico, bello robusto, e tu sei a dama, visto che sei su, le metti 2 tirantini e siamo a posto. Ditelo a me. Mi hai scendato, Gemmi? No, oggi ero sveglio tutta la sera, tutto il giorno. Oh, sveglio, vedi. Che Natalino sta disturbando quello che gli ha fatto mettere l'antenna, capito? Adesso anche quello sta disturbando il computer e la TV pure. Lì bisogna trovare una soluzione per portare sull'antenna. Perché quello ci lavora col computer, capito? Mi dispiace disturbarlo. Se sta facendo qualcosa di importante, disdivido un blocco completamente il computer. Usa quello piccolino e a futtidini. Guarda, io sto usando il baracchino con l'MB più 5, va bene così. E io non disturbo nessuno. Che sono con un vattimo io. Ecco, non me ne dite a me di queste cose, che addirittura interferisce col computer e lo blocca. Non me ne dite a me di queste cose. Eppure mi ha detto che forse diciamo la verità, che a lui gli si blocca il computer e la colpa la dà a te, capito? Ma roba da matti. Adesso il computer si blocca per il coso. Io non ne ho mai vista, poi chi lo sa, tutto è possibile. Che se la prendessero tutti le queste, guarda, ma non è che solo ti sente le cazze e dice che glielo blocchino. No, li blocco mouse, tanto vedi. Ma il mouse cosa ce l'ha? Di quelli senza cavo? Wireless? Sicuramente, a me non mi basta un cazzo, non mi piace così a te. Ma sono molto scettico perché sono frequenze proprio abissalmente diverse. Il Maures, mouse wireless lavora a 2400 MHz all'anima dalla 27 a 2004, ma io dico che anche se non modula lui si blocca lo stesso. Allora cosa dirà? Che è l'antenna che disturba, da sola disturba, capito? Mamma di turchi. Marco, io non ci metto lingua perché non lo so. Tu stai dicendo così, lui gli ha detto così, cosa vuoi dire? Io non lo so, non me ne intendo. La TV una cosa, il computer un'altra, hai anche ragione, il telefono un'altra, però. Ognuno dice la gioia, cosa vuoi dire? Vabbè, quanto stavo dicendo? Mi dici niente? Si è accorto di nulla, no? Io? Ma io l'ho smitter sballato. Vuoi dire la modulazione? Forse hai messo l'MB4 al DAC. Prova un po'. No, questo è l'MB5, non l'MB4 senza attoni. L'MB4 l'ho lasciato col connettore 6 perché mi serve, capito? Mi serve di scorta su via esso. Questo è l'MB5, sì, va bene. Eia, cioè all'inizio credo che fossi col Kenwood, forse un po' più acuto, e il tono quanto ce l'hai? A nulla, zero, non ne ho bisogno di mettoni, cosa che toni devo te? Cosa? Zero, toni zero. Ah, quindi tutto cupo. Comunque vabbè, un po' di alti ce li ha. Bene, sono veramente contento. Guarda che rispetto al mic normale, che era un po' come compresso, mi precompresso si andava, adesso è molto molto meglio. E c'è un abisso. Va bene, dai, per fare due chiacchiere. 8 watt di PTT da 12 modulati, dai. Beh, finalmente quella bestiolina gira. Se la roba lasciala ferma si rovina sempre. Capito? Tanto siamo sempre solo qua. Potremmo avere un canale quarzato, lo sai, un baracchino con un canale quarzato, 10. Andremo bene lo stesso. K. Molto bene, dai. Sono contento. E di quanto la modulazione sia buona, poi non mi interessa, già lo sai io con la tonalità che ho, ce l'ho portato bene. Sì, inizialmente mi ha dato un po' di problemi, non saliva la potenza, allora l'ho aperto, sto cassone, è un mare di fitti, bisogna aprirlo anche da davanti, dal frontale, capito? C'erano le valvole completamente piene di polvere, i piedini li ho tutti puliti con la trilina, l'ho tutte pulite, rimesse. L'ho fatto scaldare un po', è iniziato a funzionare, l'ho lasciato tutta la notte acceso e ho visto che si è ripreso tranquillamente e stava un po' andando a schifio, capito? Ma il bello è, sono gli strumenti che c'ha tutto sotto controllo, rosmetro, wattimetro, tensione delle valvole, la potenza, lo smitter sembra uno strumento. E guarda, gli strumenti sono uguali, già l'hai vista la foto, gli strumenti sono uguali a un rosmetro di quelli grandi della ZG, forse anche più grandi. Figurati che l'avevano scambiato con un lineare, per un lineare. Comunque Claudio, conta che questo baracchino riceve un po' acuto, c'è una ricezione, proprio la ricezione prevalentemente acuta, quindi magari con un apparecchio che riceve più caldo è più bilanciata ancora, capito? Ok, può darsi che più tardi lo metta, dai, così mi faccio un'idea esatta. Qua il migliore è il 5005 come tonalità calda di ricezione. E guarda che anche il baracchino che riceve fa molto, Se ricevi con quelli omologati che hanno quelli a troppo avanti piccoli, la senti tutta sì, mi hai capito? Ok. E adesso le lancio un talino, Ma ce l'avevo a 2, adesso l'ho messo a 4 il potenziometro dell'MB più 5, deve essere ancora più forte. Tu Natali sempre bene, mi ascolti, sì. E tu Marco, hai sentito differenza adesso? Guarda, io direi di non alzare troppo. di non alzare troppo il volume, perché ce n'è d'avanzo, anche come di prima, se l'hai alzato. Non alzare troppo, se no sembra, sai che cosa sembra qua il mio baracchino? Sembra quasi una static, un po' acuto. E se lo alzi troppo, non lo so. Non lo alzare troppo, mettilo a 2 come era prima, il volume, c'era il volume. Ehi, adesso l'ho rimesso a 2, dai, poco fa l'ho messo a 4. Ehi, se no comincia a fare troppo casino, è troppo, capito? Caspita, 2, non hai modificato quello, l'MPP5, sì, immagino di sì. Sì, l'ho comprato da Gigi Vulcano, me l'ha dato già testato, pronto, connettore, tutto già pronto, capito, ho fatto altro, metto la batteria. Ho comprato da Gigi, intanto lui non lo usava, e quello di Gigi Vulcano si è modificato. Ecco perché a 2 spinge tanto, perché è modificato, pensa se, mamma mia, alzandolo troppo, troppo casino fa, poi troppo confuso, capito? Già va bene anche 2. Quindi caro Natalino, ma io sono scettico, è la prima volta che sento addirittura un computer che si blocca il mouse, ma poi che ne so, potresti provare a mettere un super omologato. Se vuoi provare ne ho uno che più omologato di così non si può. Tanto per prova, mi esce un po' così, ma per prova, se è piccolino piccolino, mi sono 2 pacchetti di sigarette, a capire se, perché sai, no, certi apparati, nonostante li metti a potenza bassa, potrebbero creare più scurie armoniche. Oppure ti presto quel filtro 27586, quello a varie celle, per vedere se ti attenua le armoniche. Tutto è da provare, dai. Lo so, io ce l'ho il filtro anti-TVA, il cazzo qua. Che marca? Quello della Z-Tiger. C'ho un casino di questo ruido, ma è sonuta. No, lo ZG è meno di un giocattolo. Quello che io ho è roba di 4-5, praticamente è un filtro anti-TVA, e no, un filtro a pi greco moltiplicato per 4-5, non mi ricordo se 4-5. È superiore a questo che ho io. Ti consiglio di provare questo, poi se ti piace te lo compri. Se ti dice che non disturbi più, te lo compri uguale. Costa una 30ina di euro. Della, guarda, lo fa sia la Midland che la come si chiama? Quella che fa, la RM Italy, il mio è della RM Italy. E lo raccomandano fortemente per i loro lineari. Ma anche senza, anche con barchini normali funziona. Almeno per capire se è efficace. Se è efficace, meglio. No? Quello ZG non serve a niente, lo dicono tutti i natalini, non serve a niente. Come non metterne? Ok. Prestaglielo Marco, che magari è quello lì che ci vuole, capito? Eia, sì. Guarda, io domani sera siamo in campagna. Credo che verso le 7 usciremo di casa, siccome passo lì, posso bussare un attimo, te lo do e lo provi. E chiedi, non dire che hai messo filtri, non dire nulla. Casomai chiedi, e beh, sto sempre di scusa, se lui ti dice no, non più, te lo prendi uguale. Ok? Sì, verso 7-8 di sera passerò lì, capito? Te lo allungo e scappo subito. Andiamo in campagna a mangiare, a gozzovigliare. Io vorrei andare a pescare dopo. A pescare devi andare, e con Gianni o da solo? No, altra gente, mi stanno portando. E questi ne pescano di brutto sempre, eh. Oh, mica non ti usino per pasturare, mica. Vabbè, se deve pasturare, già poi già c'è il pipistrello che recupera tutto. Eia. Gaba, oggi bella giornata, un po' coperta, fresca, cosa vuoi di più? Non sono uscito però, infatti infatti gli ho detto, mamma, ma mi è dura la serata senza poter, senza uscire, non faccia più. Oggi poi mi sto contando le ore e i minuti. Perciò appunto ero sveglio, se avessi dormito almeno sarei stato nel limbo e non avrei contato i minuti. Adesso ho ripreso anche la Barbara d'Urso col suo programma, quella porcacciona, eh? Io ripeto, una botterella gliela darei alla d'Urso. Oh, l'ho vista struccata senza trucco, me ne è valato un raio, però struccata già è buona. La d'Urso ha detto che mi faccia la barba, quella vuole cavalli la battaglia di quelli grandi. Io sono misura media, mi sa che non vado bene. L'asino ci vuole. Vuole roba grossa. Cosa a me? Dillo a zio Claudio, cosa vuole la Barbara d'Urso? Usa il zaino. Un cammello ci vuole per la Barbara d'Urso, con due gobbe. E io ce ne dia cavalli 5 di cammelli a voglia, sono filucchi là, in televisione in Chiremi. Quattro 5 filucchi ci sono, figurati. Ma di quelli non ne vuole l'amica, non ne vuole, vuole roba grossa quella. Guarda l'asino, si prende già, te ne assorbe già, non ti preoccupare. Saluto a tutti comunque. Marco, ho trovato il gomito dell'Uniden, quando vuoi passare te lo ritiri. Grazie Antonè. L'asino, il famoso asino della crucca, bisognerebbe brevettarlo, perché è una specie di istituzione l'asino della crucca. Ma l'asino della crucca, se mi ricordo io, era perché era forte, non perché fosse superdotato, capito? È perché era forte, quello si diceva, perché era forte proprio di costituzione, cioè aveva una forza allucinante. Capito, le mettevano i sacchi da 50 kg sopra le spalle e lui li trasportava, come te va di Raino. Ma l'asino, oltre che forte, è sempre ben dotato, non ce n'è asini mini dotati. Accetta, l'asino che c'aveva mio nonno era Recchione, ad esempio, capito? Può essere Recchione, ma avere anche una mazza tanta. No, non ne aveva niente, era proprio Recchione del tutto. E un ucco? Era tutto a palle, boh. E un ucco, caspita, un asino senza pisello, te ne immagini? Buonasera Pomponi, e beh, come ti è andata? Bene, bene, adesso salgo laggiù e quindi mi sto riposando un pochettino almeno. Capretta, pure alle 7:30 prima che scendo là di la cena, 7:30, 8:15. Guarda, non sarei passato, se non fosse che la mandronia che mi canta, se no sarei uscito pure oggi, perché domani siamo a cena, capito? Oggi ero libero, avrei potuto, ma non c'è una gana a me. Ciu-ciu. E vabbè, dai. Devo uscire, basta uscire. Capito, se no poi non è voglia, si distracca una cosa diversa. Poi tu mi porti nei postriboli, ah? È pervertito questo Alessio. Sì, vado 5 di birra da bimbi, da bermi addirittura, figurati. Già pronte sono, nel locale. Da ieri, mi figurati, non ho neanche preso ieri. Ho detto, no, non ho giocato, ho detto che c'ho ancora le gambe di Giacomo, che sono andato in barca ieri. E un giorno non ci salivo sopra la barca. Non ti dico nulla con la valigetta, no? Un apparatorio era salire e scendere. In barca o in banca? In barca, al mare. Poi passavano i gommoni, ragazzi, andavano a saldare il piede e dovevi pigliare la mira. E con chi eri in barca? Con Nico sono andato, c'è una barca lì, una barca a vela, capito? E io gli ho messo l'antenna della barca, gli ho installato. Solo che la batteria mezzo scarica, poi lì a Corotone se non ci manca un cane che muro, quindi non ho potuto provare nulla. Adesso adesso la prossima settimana andiamo a provarlo, mi porto il portatile e facciamo le prove così. Certo, perché non mi chiamate a me che faceva con me le prove. A proposito, ma Claudio, ma Sandro il produttore se l'ha titanza, non è più entrato, no? Sto bene, sì, sai nulla? So che si è trasferito, capito, per QRL, ma non so altro. Sì, l'altro giorno è entrato, ogni tanto già entra, è che è sempre fuori per lavoro, capito? Sì, a poi gli altri produttori se non stanno più entrando, non sta più entrando nessuno. Né Benito, né Franco Di Sorso, sì ogni tanto, ma raramente. E questa frequenza sta diventando sempre più... Ci siamo noi mica, la teniamo in piedi. Natalino entra quasi sempre, io quando posso, Claudio sempre, quando può anche lui. E se no non ci sarebbe un'anima se non ci fossimo noi mica. Poi vabbè, il 20 ogni tanto, però anche lì langue, anche PMR langue, pensa. Vabbè, ma dovete pensare che la gente c'è anche altro da fare, non è che... No, Benito ha tolto l'antenna, Benito stava facendo lavori, non c'ha più l'antenna, l'ha tolta da lì, capito? Poi il produttore c'è chi c'è, Sandro e Bu, Cavino si aveva venduto tutto, aveva cambiato anche posto di attività, quindi ha tolto l'antenna dal posto d'attività, capito? E chi c'è rimasto a produttore? Ma nessuno, chi c'è a produttore? Franco lo sento sempre, io sul 12, cosa stai dicendo? Franco parla molto sul canale 12, a volte entra qua a salutarci, ma magari non coincidono gli orari tuoi. E vabbè, quelli che siamo, siamo, Marco, cosa di Naputi, pazienza. L'importante sia sempre qualcuno a fare due chiacchiere, poi per il resto ciccio. Adesso arriva l'inverno e vedrai che la gente, stando a casa, magari piace più fare due chiacchiere alla radio, capito? Tanto con quel caldo che ha fatto cosa pretendi? Adesso queste giornate c'è chi ha abbandonato un po' la campagna perché c'era troppo caldo, adesso c'è fresco, se ne va in campagna a fare qualcosa, capito? Sì, anche quello è vero. Vabbè, dai. No, sul 12 non ascolto mai. Proprio non me ne ero accorto che c'era gente sul 12. C'era Gianluca, la Pro Torres. Ma non sento più nessuno. Oh, pazienza. Se è destino, ci riusciamo a soprammobili, baracchini, eh? Bene, Mimì la pappa è arrivata, vero ma? Allora vabbè, purtroppo devo mangiare, dai, credo, e quindi devo rimanere all'ascolto. Riprendi Antone, fai girare tu, dai. Sì, è una cosa, ma scendiamo un po', ma c'è la voce, non c'è, tanto già facciamo la voce, non è giusto. Andare avanti e piatta lì. E anche io devo andare a farmi qualcosa da mangiare perché devo andare a pescare e se no andiamo male, va. Ci sentiamo domani all'inizio. Ciao a tutti. Ciao Natali, dai, ci sentiamo domani. Alle prossime. Ok. Dai Marco, mangia e poi chiama, però io sono qua in ascolto, non fare che te ne vai a dormire, capito? Antonio, tu giù stai scendendo? Sì, devo scendere il foglio che ho fatto firmare poco fa dalla del Sole, per portare la roba dalla Palazzo Rosa, capito? Adesso scendo giù il foglio così, poi al limite, non so se vediamo un po', ma alle 7:30 secondo me. Dopo che è cenato nel fratello, al limite scendo da lì con un attimino, gli passo la pila e bevo la pila, tanto è gratis. Poi 5 sera bevi, e poi me ne salgo su col tram. Io la medicina, ha preso le 10 perché oggi gli ho dato le 5 di sera, da una cosa all'altra, me ne sono completamente dimenticato. Mi pare mi sto rincoglionendo, a forza di stare a destra e a sinistra, con i pensieri, fai con infermieri, ogni tanto viene con il liceo dell'Adi, no, lo sai, no, come la questione dell'Adi. Ogni tanto mi viene uno, vuole avere i fogli, poi disegna quello, poi disegna quell'altro. Sì, Antonio, un po' di pazienza, dai, piano piano, futtidini, dai, vai a portare il tuo foglio, io rimango qua in ascolto. Se entra qualcuno, sono qua, ok? Sì. D'accordo, non c'è problema. Ah, devo portargli anche il portatile, quindi io ti posso chiamare tranquillamente col portatile della 27. Così quando ci andiamo a prodotto, se almeno lo proviamo. Andare, ci diamo dopo, là. Ok, a te, a dopo, dai, sono qua in quelli. E beh, c'è più nessuno. Sento io, boom, tutti spariti. E vabbè, dai. pazienza, sto guardando studio aperto, ma niente di che, dai. Che sono i ferri corti, Nicola, Corea, gli Stati Uniti. Questo è scemo, minaccia anche l'Europa, cioè non ha, è proprio uno scemo, è uno scemo che ha le bombe atomiche, capito? Minaccia tutti, ce l'ha con tutti, sta cercando la bomba buona lui, capito? Se ne scende in testa. Mancherebbe di già bene, per carità. Ma il bello è, io voglio che lo pillino vivo, gli americani, che lo attacchino alla corrente, che lo torturino, guarda. Poi lo fucilano, capito? Così smette di ridere, di battere le mani, che sembra un mongoloide. Già la faccia del mongoloide ce l'ha. Cazzo, se non è brutto quel ministro cinese, sembra una bambola, che... Qual è? Non ho capito. Quel ministro cinese o coreano, è femmina. Mamma mia, quanto è fea, che... No, non ce l'ho... Ah, aspetta... non mi ricordo il nome, non me lo ricordo. Sì, quella che hanno intervistato l'altro giorno, cos'è un ministro, cos'è? Mamma mia, quanto è brutta, cioè. Purtroppo non tutti i politici sono belli, ah, magari dal mondo facevano tutti belli ogni giorno, ma arrivando al sonno che non ho fatto nel pomeriggio. E vabbè, dai. Ma però un po' gli manda i messaggi e c'ha WhatsApp spento. Non li riceve proprio. Come Gianni, mi gli manda un messaggio e risponde dopo 4 giorni. Cazzo, Gianni è mitico. È mitico, ma perché non sia non sia proprio col telefono in mano, se no va bene, lo borsello, si è mitigheggiato in vivo. Eia, sì, ma così non, come non averlo WhatsApp. Io magari non sono immediato, ma magari dopo un'oretta rispondo, che ne so, metti che non abbia sentito lo squillo, no, il messaggio. Eia. Nuovo mi lo sbadiglio, mamma mia, come mai? O è fame d'aria o è sonno? Che me ne vieni la manicolina con questi sbadigli, Pensate, c'è un film interessante, fantascienza, di quello che piace a me. Com'è? Aspetta, il titolo Ultimatum alla Terra, che è un rifacimento di un film anni 50 che hanno già fatto negli anni 50 con Keanu Reeves, quello che ha gli occhi un po' orientali, non so se lo conosci. Sì, l'ho già visto, un bravo attore quello. No, non so già, c'è la tribù. Io sono sempre legato alle donne qua. Ascolta, ho visto sulle notizie che ha giocato la Spagna con una squadretta di non so cosa, 8-0 ha vinto. Che squadra era? Non mi ricordo. 8-0. Ogni umiliazione. Ma doveva essere una squadretta di che chiami? Non è una squadretta di niente, no? L'Italia è una bella squadra. E tieni conto che la Spagna ne ha fatto 3 all'Italia, quindi... Hai capito? Perché la Spagna per me rimarrà sempre la squadra più forte al mondo, sia come nazionale italiana che come squadre unificate come Real Madrid, Barcellona e tutte le altre. Mi vengono questi sbadigli, non so perché. Cosa stavo dicendo? Non lo so se questa è Italia mondiale, però dormivano durante la partita con la Spagna, non lo so. Ma se altri 5 minuti è pareggia l'Israele, cosa? Sino per il burro l'Israele, ha fatto una parata buffo proprio da cosa, mi sennò no, la partita da 1-1 con l'Israele. E fare playoff per, quando mai l'Italia ha fatto il playoff per i mondiali? È stata sempre prima nel suo girone, ai tempi che che c'è nel giocatore. Non ce n'è attaccanti italiani, Marco, sono tutti stranieri gli attaccanti. Quindi lui si basa su quelle 3-4 persone che c'ha a disposizione nella Serie A. Gli attaccanti delle squadre italiane sono tutti stranieri. Oramai le squadre italiane, Inter, Milan, Juve, Sampdoria, Roma, Napoli, c'ha tutti stranieri sono. Ehi, sono tutti stranieri, sì. Italiani non c'è più, però caspita, no, la Spagna è fortissima, ora erano dormiti proprio il giorno, ma con l'Israele è come finita 1-0 mi pare, no? Sì, 1-0 ma sofferta davvero, però se no la partita 0-0 e no, manco il playoff faceva, capito? Meno male che ha vinto 1-0, un gol proprio di Ciro Immobile, no? Il Gollonzo, come lo chiamava la Gialappas, il Gollonzo, proprio fatto di culo quasi. La Spagna vince mondiale quest'anno, l'Italia per me farà 1-2 partite e poi esce direttamente. O elimina la Spagna non lo so, la Germania. Se c'entra pure mondiali. Ma guarda, a me in tasca non mi viene niente. Io se entrano i mondiali va bene, meglio così, se non entrano peggio Baretti. E infatti, poi io già non ne seguo, poi in tasca non me ne entra niente, quindi. Vabbè. Pazienza. Io mi guardo la mia magica Juve, se anche quest'anno riesce a dominare, perché quest'anno il campionato è molto più difficile dell'anno scorso. Le squadre sono tutte nuove, come Milan, Inter, il Napoli è sempre forte, la Roma un po' meno, però è un bel campionato, dai. Io non ho mangiato, una cosa, un ammasso di verdure con del pollo, boh, una cosa sta assaggiata, non mi è piaciuta niente, non ho ancora mangiato infatti, mi dispiace ma questa volta è uscito male, mangerò qualcos'altro, va bene, va benissimo, quindi entra Gianfranco dopo, sì, che è da un po' che non entra lui. Lo sento di più in banda amatoriale, in HF, ma in VHF. Ma Gianfranco, e dove? Ma Gianfranco, in VHF lo so, non adesso però, dico, in questi giorni lo sto sentendo più attivo in VHF. Sì, ma no, 525. No, tipo 6625, su ponte. Ogni tanto sento che parla digitale, magari va in digitale quando può. Sì, vabbè, quello già lo so, no, perché io sono sempre attivo, le bande insomma, principali, sia le V che le U, ogni tanto sento qualcuno, come l'altro giorno sento Giovanni Assano, sono entrato a salutare, ma poco traffico, quindi per quello, poi Gianfranco non c'entra mai lì. Venga. Ho sentito su YouTube, più che sentire e vedere, da. Non riesco a non farli, Claudio, non lo so, c'ho fame d'aria forse. E ho visto quel ricevitore ARDV1, il primo ricevitore AOR digitale, che prende DMR, DPMR, D-Star, forse tutti, forse. Soprattutto sai DMR tipo polizia, quelle cose americane, solo che sono compresse le modulazioni, non è come l'analogico bello limpido, è tutto un po' compresso tipo robot le voci, poi quando il segnale è particolarmente basso ancora di più, mi manca tipo il cellulare lì, mi senti mancare la voce, la sinistra, ho ascoltato molto di Star Fusion, no? E certe volte deficita proprio, perché la compressione è alta. Senti queste voci da robot, dai, che invece in analogico non senti, perché è limpido. Se capì? Quindi quando il segnale è buono, ancora, beh, ma senza pace sì. Se la ride. Bene. Capito Claudio, digitale ancora, vabbè, purtroppo, cioè, cosa fai? Se aumenti il bitrate, come si fa? Vabbè, comunque costa un bel, costa 1000, non so se 1600 o 1800 euro. Bisogna essere proprio fissati, no? Per pigliarci quell'apparecchio. Io non ci sto nemmeno pensando. Non esiste, poi non, a parte non ho i soldi per comprare una cosa del genere, no? Non c'è tanto, dai. In Italia no, in America ancora sì, però in Italia c'è il tetra. In America senti che ne so, la polizia ancora, se non è criptata anche, se no non la senti nemmeno. Chi lì lavora sugli 800 MHz c'è la polizia, 800 e tanti. E vabbè. Poi si moltiplicheranno gli apparati, scenderanno i prezzi, no? Quello diciamo è il primo e costa un bel. Sì, vabbè, gli apparati costano tutti, Marco. No, io ricevitore, scusa, ce l'avevo, il VCR7000, però non ero ancora rianatore. Poi quando sono entrato rianatore, il ricevitore non ne avuto più. Ho comprato il ricetrasmettitore. Vabbè, se riuscissi a mettere a posto quel black già, guarda, ci picchia, non accende, manco dando l'alimentazione accende, buh. Ehi Claudio, ormai, vabbè, tu c'hai anche gli apparecchi amatoriali, ma quello più simile a Black Jaguar ormai è, sai quale? È tipo Uniden, gli apparecchi tipo Uniden. Io tra il VR500, quello che ho dato a Natalino, l'Uniden, preferivo l'Uniden, e fa proprio più da scanner, come dire, vabbè, funzionamento è lo stesso, però è a salti, no? Tipo 66-88, 100, poi banda aerea che non mi ricordo, 118-136, poi 136-174, 400-470, tutto a salti, no? Però è la cosa più simile al Black Jaguar, che era lo stesso a salti. È bello, poi quanto riceveva bene Claudio, quell'antenna elicoidale deve essere graffata particolarmente bene, riceveva ovunque, era un bijou, poi te l'ho detto all'epoca tutto in chiaro, gli mancavano solo i 900 MHz, per dire, poi c'è io, l'epoca dei cellulari, l'età dell'oro, avevo un Uniden da tavolo, quelli piatti, era un UBC 860 XLT, mi ricordo ancora la sigla, UBC 860 XLT da tavolo, col suo antennino, piatto, no? E, mamma mia, mamma di turchi, col suo antennino sentiva tutto. No, ma il Black era micidiale, con quell'antenna, era bruttina come antenna, però aveva anche l'attacco BNC, quindi ci attaccavi anche l'antenna esterna, cioè un discone, ma ricevevi tutto dall'A alla Z, ma anche con l'antenna sola dentro casa, era favoloso come ricevitore portatile. Io non mi ricordo che fine avesse fatto, ma credo di averlo venduto poi per salire di grado prendendo altra roba, almeno così credo di ricordare, ne ho un lontano ricordo, però quello mi ricordo che diceva bene anche vigile il fuoco, quelle cose, no, nella zona 66-88, no, diciamo a metà, ecco. Ok, io adesso vediamo se cerco di buttare giù qualcosa, dai, non lo so, sono anche chiuso di stomaco, forse per quello non ho mangiato. E mangia qualcosa, dai, una mezz'oretta, così io vado a portare il cane, poi ritorno, tanto lascio tutto acceso qua, non c'è problema. Non so se rientrerò oggi, Claudio, perché forse mi verrà la biocco, perché sai, troppi sbadigli mi stanno venendo. Forse il fatto di non aver riposato dopo pranzo e non un po' adesso, perché sai che certe volte alle 9, 8 e mezza, 8, 8 e mezza, boom, strumito. Mi prende il colpo di sonno a quell'ora lì, capito? E mi sveglio alle 10, così. Ma oggi c'è quel film, non me lo voglio perdere, dai. Quindi se non rientro, ritieniti salutato, ok Claudio? Dai, cerco di mangiare qualcosa. Tanto per dire che ho mangiato. Ehi, Marco, io chiamo dopo, adesso vado a portare il cane, l'ho portato presto stamattina. Poi io chiamo, se c'è qualcuno, va bene, se no, pazienza. Ok, buon pranzo, buon tutto e saluti a casa. A dopo, se coincide, se no, a domani, ciao. Ehi, Claudio, dai, nel caso non rientri, ciao, buona serata, buon tutto, buona cena, ok? Ehi, ciao, ciao. Ciao Marco, no, io lascio tutto acceso qua, io chiamo dopo quando salto, lo so se permette, se c'è qualcuno va bene, sono pazienza, ciao. Sì, anche qua è sempre acceso, fino a sera tardi, a notte tardi. No, qualcuno se lo già fa, accende, chiama, se in 30 secondi non risponde nessuno, spegne. È così inutile. No, qua rimane acceso, magari non lo sento dall'altra stanza, può darsi che non lo senta. Ma quando sento magari rispondo. Ok, dai, buona passeggiata, ciao ciao. Ciao ciao ciao. Cos'è che vai Franco, cos'è che c'hai? Ciao fra, lascia mangiare a Marco. Dai, sentiamo dopo, stanno a portare il cane fra. Ciao fra. Ciao Valè, tu sì. Come faccio a non sentirti? Anche se passeggi a Ranghiero già ti sento io. Dai, che stanno a portare a Pippo, sentiamo dopo. Va bene Marcolino, mangiando vai. Ecco se hai perso il gatto fra. Adesso avevi perso il gatto, ti sento miagolare. E vorrei ha perso anche il cane, non solo il gatto. Ciao fra, ciao. E anch'io mi sono rientrato adesso. Tra un po' ci prepariamo per la cena. Ciao.